Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Parole d'onore. Per le storiacce vi riproponiamo un estratto dell'incontro tenutosi al festival Le Parole e i Giorni il 17 aprile a Poggi Bonsi. Raffaella Calandra dialoga con Michele Prestipino, procuratore aggiunto di Reggio Calabria e già nel pool antimafia palermitano, e Attilio Bolzoni, inviato di Repubblica e autore del saggio Parole d'onore. E dall'omonimo spettacolo sono tratte musica e testo dello spettacolo che ascolterete in sottofondo con Michele Gambino. La chiave di volta, anche in questo caso, la forniscono direttamente loro. In Cosa Nostra è sempre così. Le cose non hanno mai un solo significato, disse Antonino Calderone. E la missione di un vecchio boss ci fornisce il primo fondamentale indizio per entrare in questo grande rebus delle parole d'onore, ovvero il linguaggio della mafia, dove le sillabe e gli inganni si combinano, direbbero loro, come le consonanti con le vocali. Io sono stato fatto uomo d'onore che ero molto giovane, direi bambino. Ed è il grande dizionario dei mafiosi che ora andremo a sfogliare insieme a due profondi conoscitori dei segreti della cupola, nonché entrambi figli di quell'isola plurale, come è stata ribattezzata la Sicilia, terra a tacer d'altri di Pirandello e Sciascia, caratteristica, come vedremo, che aiuta a diradare non poco le nebbie di un lessico dove tutto è duplice e tutto è messaggio e dove è necessario un orecchio allenato per riconoscere sfumature rivelatrici. E a spiegarci questi lemma matriosca saranno Attilio Bolzoni, inviato di Repubblica che da decenni scrive di mafia, autore tra l'altro di Parole d'onore, appunto, da cui è tratto lo spettacolo teatrale, e Michele Prestipino, già membro di quella pulla di magistrati palermitani che nel 2006 arrestò Bernardo Provenzano, svelando poi il codice provenzano, titolo del saggio a firma sua e di Salvo Palazzolo. Ora è procuratore aggiunto a Reggio Calabria. A meglio parola e che da conserisci. La decodifica delle parole parte da un assunto. I mafiosi, al contrario di quel che si pensa, parlano. E anche se un loro motto è che a meglio parola e chi da ca non si dici, ossia la miglior parola è quella che non si dice, i primi a disattendere alle regole sono loro stessi. Tutto sta ad avere il codice per leggere quelle comunicazioni. Un codice che all'epoca Tommaso Buscetta consegnò a Giovanni Falcone e questo lo rese il magistrato più temibile per i boss. Un codice fatto di parole, ma anche di gesti e silenzi, che permetteva di entrare nelle segrete stanze di Cosa Nostra. Per questo, quando Don Masino cominciò a parlare, a Corleone dissero che aveva visto il mondo e gli era scoppiato il cervello. Bolzoni, che vuol dire questo? È una formidabile parola d'onore. Quando hanno arrestato Totorina, sono andato per diversi mesi a Corleone e sono entrato in contatto con la famiglia, col fratello. Questi colloqui col fratello erano colloqui surreali, perché stavamo un'ora e mezza, due ore a guardarci, ogni tanto mezza parola, ogni tanto uno sguardo, ogni tanto un silenzio, che spesso i silenzi di quel mondo dicono molto di più delle parole. Ad un certo punto gli chiesi che cosa pensava di Buscetta, che era l'uomo, il mafioso che aveva scardinato per primo quel sistema, e lui rispose con questa frase molto siciliana, disse: "Vitto mondo e ci scattiò cervello". Ha visto il mondo e gli è scoppiato il cervello, e lo disse con rassegnazione. Significa: ha viaggiato tanto, è stato negli Stati Uniti, è stato in Brasile, è stato nel nord dell'Italia, è uscito dai confini della tribù, ha visto un altro mondo ed è diventato pazzo, perché era stato contaminato da altre culture. E queste contaminazioni avevano portato Buscetta a parlare e dal loro punto di vista era uscito fuori di testa. Ma se noi oggi parliamo degli inganni di mafia e delle parole di mafia, è perché i mafiosi, al contrario di quello che si possa credere, questo è stato un altro loro inganno costruito in decenni anche di tradizione, di immagine della mafia e degli uomini d'onore, i mafiosi parlano. Anche se hanno come uno dei loro motti a meglio parole chi da ca non si dice, cioè la miglior parola è quella che non si dice, aveva detto Rina, o ancora lo stesso Rina che diceva che la curiosità è l'anticamera della sbirritudine. Al contrario di questa tradizione, appunto, loro parlano e poi hanno scritto. Luciano Ligio aveva detto: apprezzo Socrate perché come me non ha scritto nulla. Prestipino, che cosa vuol dire questo inganno che hanno creato intorno alla loro immagine di uomini che tacciono ma che in realtà parlano? Quella che possiamo chiamare la professione di omertà dei mafiosi è la prima falsità, è il primo inganno, perché quello che i mafiosi non parlano è un falso storico. A partire dai primi processi alla criminalità organizzata, ma parlo della metà dell'Ottocento, quei processi si fondavano sulle confessioni degli imputati. La verità è che l'omertà è purtroppo una imposizione a quelli che i mafiosi e il loro potere lo subiscono, e cioè l'omertà è delle vittime, non è dei mafiosi. Se facciamo un salto di 50 anni e dalla metà dell'Ottocento andiamo al periodo fascista, mentre in Sicilia era stato inviato il prefetto Mori per debellare la mafia siciliana, in Calabria, in Aspromonte, operava uno strano personaggio che si chiamava Massaru Peppe ed era un maresciallo dei carabinieri. Si chiamava Giuseppe Delfino, fratello di un personaggio più noto. Questo Massaru Peppe è uno che aveva il palmares dell'arresto degli 'ndranghetisti, che si era costruito in questo modo. Lui saliva in Aspromonte travestito da pastore e naturalmente incontrava gli altri pastori. La sera si sedeva nei loro bivacchi e lui ascoltava le confessioni di tutti questi che bevono e mangiavano insieme a lui. Questi naturalmente parlavano dei loro reati. Lui poi scendeva, si metteva la divisa da carabiniere, si portava i suoi uomini, tornava su e li arrestava tutti e testimoniava sulle parole dette. Questo accadeva negli anni 30. Quattro giorni fa a Reggio Calabria noi abbiamo arrestato 25 persone in un paese della provincia di Reggio che si chiama Condofuri. Tra quelli che abbiamo arrestato ultimamente sono due mafiosi, i quali a un certo punto conversano tra di loro e si lamentano di una terza persona il quale ha conoscenza di cose che non avrebbe dovuto sapere. I due si dicono, dice, la verità è che qui non c'è più nessuno che si tiene le cose, parlano troppo, parliamo troppo. In effetti hanno ragione, perché non solo i mafiosi hanno sempre parlato e quindi quello che dice Ligio è una solenne bugia e quella che dice Riina è una bugia a metà, perché sì, è vero che, come dice lui, la curiosità è l'anticamera della sbirritudine, però io direi che è la curiosità degli altri, perché la sua Riina ha governato e esercitato il potere dentro Cosa Nostra in una maniera assolutamente feroce, ma con estrema curiosità, perché non c'era foglia che si muovesse su cui lui poi non facesse un'indagine. Se vogliamo contare, no, l'archivio delle parole mafiose, possiamo dire che sono milioni. In questo dizionario possiamo aggiungere anche una voce, che è quella dei silenzi. Se è un falso che i mafiosi non parlino, parlano anche attraverso i silenzi. E ci sono vari tipi di silenzi che trasmettono messaggi che arrivano esattamente al destinatario o ai destinatari a cui sono appunto rivolti. Un esempio di questi sono i silenzi a tempo, i silenzi che sono ricatti. Abbiamo visto i vari tipi di esempi anche recenti, non molto tempo fa, in un'aula di un tribunale a Palermo, appunto, un boss di Brancaccio, Graviano, disse: parlerò quando starò meglio. Attilio. C'è un mafioso che dice delle cose e un mafioso che sta zitto, sono i due fratelli Graviano. Se si entra nel loro mondo ci si accorge che il mafioso che sta dicendo delle cose non sta dicendo niente, e il mafioso che sta dicendo invece delle cose vere è quello che sta zitto. Ed è l'esempio proprio dei fratelli Graviano in quel processo. Le parole non sempre portano dei messaggi, alcune volte sono i silenzi che sono molto più minacciosi, sono molto più espliciti delle parole. Però per riuscire a decodificare questo, decifrare questo, bisogna conoscere veramente a fondo quel mondo. Un mondo che è stato svelato all'inizio da Buscetta, un mondo che negli anni e progressivamente i magistrati hanno imparato a conoscere, scoprendo l'ambiguità di certi pensieri anche in parole che erano estremamente concrete e apparentemente chiare, o altrimenti conoscendo dando invece indicazioni ben precise coperte dietro codici, il primo dei quali è appunto quello di Provenzano, un codice che Prestipino ha contribuito a svelare e che è attinto al codice di Svetonio. L'autore della De Vita Caesarum e De Viris Illustribus parlò del codice usato da Cesare per coprire le sue comunicazioni più segrete e appunto Provenzano, terza elementare neanche finita, classe 33, l'ha utilizzata per non solo indicare i destinatari dei suoi pizzini, ma soprattutto per coprire nomi più sensibili. Prestipino, ma chi gliel'ha insegnato a Provenzano? Conosceva Svetonio? È una bella domanda, ancora più bella sarebbe la risposta. Però qualche sospetto ce l'ha il procuratore. Questa risposta ci consentirebbe di entrare in quello che è sempre stato il cuore del potere mafioso, la vera spiegazione della durata della mafia, e della sua penetrazione nella società, che ormai non è più quella soltanto meridionale. Noi abbiamo questo fenomeno, quello siciliano sicuramente dall'Unità d'Italia, quello calabrese da ancora prima. La mafia in questo paese è, come dire, un elemento strutturale. Lo è stato perché ci sono complicità, perché ci sono quelli che appunto hanno insegnato a Bernardo Provenzano, analfabeto o quasi analfabeta, questi codici, che sono soltanto ovviamente un aspetto di un problema più importante e più serio. Una curiosità ancora su questi codici sono per esempio gli errori filologici. Provenzano, nello scrivere i suoi pizzini, volutamente inserisce degli errori per far sì che poi anche le risposte che riceve abbiano un marchio che gli garantisca l'autenticità della risposta e che gli eviti le manipolazioni di cui ieri ad esempio su questo stesso palco si parlava. Ma il potere di Provenzano è stato poggiato per anni anche sull'inganno e la dissimulazione, appunto, fondata anche sul dare un'immagine lessicale e poi di regole enunciate che poggiava su qualcosa in cui l'intera collettività potesse inizialmente riconoscersi, attingendo anche a quelle che sono la retorica anche più lontana di questa isola plurale. Per questo Provenzano dice ai suoi uomini: come comandamento devi essere retto, corretto e coerente. Rivela una delle caratteristiche fondamentali della capacità della mafia in Sicilia, dei mafiosi, di stare dentro la società siciliana. Esatto quello che tu dicevi, cioè l'arte della dissimulazione. Provenzano è un mago dell'illusionismo. Abbiamo scoperto per la prima volta una sua cosa scritta, che era una firma, quando siamo andati a Marsiglia, nella struttura sanitaria dove lui si è operato, nel 2003, noi siamo andati nel 2005, abbiamo trovato la cartella sanitaria di Monsieur Troyat e invece era Bernardo Provenzano. E c'era questa firma apocrifa, falsa, ed era tracciata con una calligrafia particolare ma molto comune, che è quella delle persone poco alfabetizzate, cioè lettere grandi, tratto tremante, ogni lettera diversa dall'altra. E poi la sorpresa nel covo di Montagna dei Cavalli l'11 aprile, quando sul suo tavolo, oltre ai pizzini dattiloscritti, c'erano i suoi appunti manoscritti. E allora abbiamo scoperto che la calligrafia di Bernardo Provenzano è esattamente l'opposto: ordinata, minuta, piccola piccola, tutta ogni lettera uguale all'altra. Quindi c'è proprio una volontà di dissimulare la scrittura e la propria personalità. Storielle. Storiacce. Seconda parte, puntata speciale di Storiacce. Vi riproponiamo un estratto dell'incontro sulle parole d'onore tenutosi al Festival di Poggibonsi, Le parole, i giorni, tra Raffaella Calandra, Michele Prestipino e Attilio Bolzoni. Non a caso il capitolo più sottolineato della famosa Bibbia di Provenzano era il capitolo dei numeri. Sì, anche il suo modo di scrivere i pizzini, questo modo un pochettino sgrammaticato, qualcuno ha detto, ma sì, ma questa è una scelta, anche questa di dissimulazione, perché così lui non svela se stesso. Però c'è un'altra verità, ed è una verità interessante, che era quella a cui accennava prima Raffaella, e cioè di questa capacità di calarsi nelle cose siciliane, nel modo di esprimersi dei siciliani. E la costruzione anche di frasi che ritorna nei pizzini di Provenzano, così come ritornava nella parlata di Totò Riina, un rifarsi a ciò a cui i suoi compaesani potessero rivedere e ritrovarsi. Così, a proposito della dissimulazione di un'immagine positiva che la mafia voleva dare ai propri picciotti, Riina disse di fronte a Buscetta, disse: «Noi a Corleone viviamo di correttezza morale, io non parlo con chi abbassa moralità». Per 150 anni, per un secolo e mezzo, la Cosa Nostra siciliana si è tramandata oralmente. Ora, le parole scritte sono degli ultimi anni, che sentiamo parlare di pizzini, di papelli, di covi dove tengono dei bignamini della mafia. Quindi è una novità estremamente importante, perché quel sapere orale è diventato adesso una cosa invece che si ritrova in fogli. Questo fa capire che sono in grave difficoltà. Prima non avevano bisogno di lasciare qualcosa di scritto, ora hanno paura delle intercettazioni, delle ambientali, quindi usano degli altri sistemi. Pensiamo al famoso papello, che è il più famoso di questi documenti scritti. Quindi sta cambiando molto anche in quel mondo. Per tornare alla domanda che hai fatto tu, Raffaella, è formidabile quel discorso per capire un po' il concetto di morale, di etica che questa gente ha. Noi viviamo di correttezza morale. Ha detto queste parole in un contesto molto particolare. Era un faccia a faccia nell'aula bunker di Palermo, dove lui e il Buscetta avrebbero dovuto parlare di vendette, e lui non ha accettato il confronto con Buscetta perché lo riteneva non alla sua altezza morale per i suoi 3 matrimoni. Sono parole molto significative queste, perché lui intanto non ha parlato del processo, ha accusato Buscetta di scarsa moralità. C'è un carico di ipocrisia e di doppiezza straordinario, perché poi uno dei corleonesi, uno che viveva nell'agiatezza e viveva nella Palermo dei salotti, che era Gaetano Grado, il quale quando ha iniziato a collaborare mi ha raccontato, dice: «Dottore, dice, sa, dentro Cosa Nostra c'è un po' di ipocrisia». Dico: «Ma va?». Dice a me mi chiamavano Tanino Occhighiaccio. Mi diceva: «Dottore, io alle donne ci piacevo, però a Palermo non è che potevo fare niente». E allora ogni tanto ci diceva Stefano Bontate, il suo capomandamento: «Stefano, mandami in missione a Milano». E lui mi concedeva la missione a Milano, 15 giorni. E voi capite tutti che cosa Tanino Occhiazzurri andava a fare a Milano per 15 giorni. Tutto ciò che le regole gli imponevano di non fare a Palermo. Ecco, sì, questa è... Però, ad esempio, a Palermo le regole sono regole. Erano. Certo. Un altro di questi mafiosi diceva: quella famiglia, la famiglia di Portanuova, noi la chiamavamo la famiglia degli Spazzini. Famiglia degli Spazzini perché due boss importanti avevano l'amante. Se tu hai un amante si duplicavano e se tu hai le una occasioni. Moglie, prima o poi o la moglie o l'amante ti tradisce. Erano già due i luoghi, cioè i letti, dove tu raccontavi le cose che non dovevi raccontare, i segreti di mafia. Uno, quindi una moralità che è funzionale alla sicurezza e alle regole dell'organizzazione. Infatti non a caso questa funzionalità la trasferivano anche appunto nel loro linguaggio, laddove lo stesso Provenzano diceva: «Io sono nato per servire». Usava un'espressione che era una sorta di captatio benevolentiae nei confronti dei suoi interlocutori, a cui trasmetteva i suoi ordini, ma allo stesso tempo questa stessa dissimulazione linguistica la usano nell'imposizione del pizzo, per cui il pizzo diventa la messa a posto. Una dissimulazione che nel corso dei decenni di Cosa Nostra è stata anche trasferita dagli aggettivi, per cui mafia si utilizzava riferito ad una donna o ad un cavallo come una bella donna, poi è diventato anche un verbo, in che cosa avrei mafiato, diceva ancora Michele Greco, fino a diventare un bignami di parole fatte della mafia. Fino a qualche anno fa la parola mafia non veniva pronunciata in Sicilia. Fino alla fine degli anni 70 i procuratori generali all'inaugurazione degli anni giudiziari avevano espulso la parola mafia nelle loro relazioni. Io mi ricordo che al maxi processo di Palermo nel 1987 la città era in un silenzio surreale perché i mafiosi avevano dato ordine che a Palermo, durante lo svolgimento di quel processo così importante per loro, non dovesse accadere nulla. E ricordo che c'è stato un bruttissimo omicidio, avevano ucciso un bambino. La mattina successiva, dentro l'aula bunker, uno dei mafiosi più rappresentativi, si chiamava Giovanni Bontate, si è alzato e ha detto: "Non siamo stati noi". Ora, quel noi era una cosa veramente incredibile per i siciliani, la missione di esistenza in vita dell'organizzazione. Anche per quel noi, quella piccola parola noi, quando quel boss mafioso è stato scarcerato, è stato ucciso. Anche per quel noi. E adesso non solo i mafiosi pronunciano quel noi, ma dicono addirittura la mafia fa schifo. Quindi dalla mafia non esiste, si è passati alla mafia fa schifo. Perché anche i mafiosi hanno scoperto il valore dell'antimafia, hanno scoperto che l'antimafia è un capitale e stanno da anni cercando di nascondersi. Rotolo, questo mafioso, a un certo punto dice come regola: prima uno deve rispettare la gentuccia del quartiere per essere voluto bene. Prestipino, ancora una volta ritorniamo alla dissimulazione delle regole per cercare di fare proseliti. Parla Nino Rotolo, che è un capo un po' più su del mandamento nel momento in cui parla. Va da lui un altro capo mafioso di più basso rango e Nino Rotolo gli spiega questa, tra virgolette, filosofia. Tu sai che noi campiamo per il popolino. Prima uno deve rispettare la gentuccia del quartiere per essere voluto bene, perché tu non devi essere, come dire, temuto. Tu devi essere voluto bene, che è diverso, perché il rispetto è una cosa, la soggezione è un'altra cosa. La soggezione, appena ti giri, un colpo di pugnale te lo dà, ma se tu, come si dice, fai del bene, la pugnalata non te la dà nessuno. Lo stesso concetto viene espresso da un 'ndranghetista calabrese. E questa frase, 18 settembre 2009, tutti quei valori che all'origine c'erano, che si facevano determinati discorsi, determinate alleanze, oggi sono tutti venuti meno. Ti posso dire che le persone sono stanche al di fuori di questo ambiente, cioè dell'ambiente mafioso. Una volta non era la paura che ti portava a portare rispetto agli uomini. Ora, da un 20 anni a questa parte, che è paura, non è più rispetto, è paura, ma nel nuovo millennio, secondo me, la paura non ci sarà più, perché le persone sono stanche. Guardate, uno è siciliano, l'altro è calabrese, uno è un capo affermato, l'altro è una leva emergente e usano tutte e due le stesse identiche parole. Già, per esempio, nella relazione di Sonnino scrivevano sul fatto che i mafiosi poggiavano sul medesimo sentire della gente. C'è un altro tipo di dissimulazione che è quella nascosta dietro parole che sembrano degli auguri o uno scambio di complimenti. Anche questo in modo trasversale è passato da decenni, quindi generazioni di tipo diverso. Così poco prima che i giudici del maxi processo si riunissero in camera di consiglio, Michele Greco, questo boss famoso, il Papa, augurò loro tanta serenità e pace. Decenni dopo, in un altro contesto, nella faccia a faccia, nel processo dell'Utri tra i boss di Brancaccio e il loro ex uomo, appunto il pentito Spatuzza, anche se erano su posizioni opposte, tra di loro ci fu uno scambio quasi di complimenti e quest'uomo Spatuzza continuò a chiamare il suo capo Madre Natura. Quello è un gioco degli specchi. Questo ultimo pentito è arrivato all'improvviso a un rapporto così ambiguo con i suoi capi, lo chiama infatti Madre Natura. Io non avevo mai sentito un uomo d'onore siciliano adoperare termini simili, così altisonanti per indicare un capo, e racconta, accusa i suoi capi e nello stesso tempo li tratta con rispetto. I suoi capi, che vengono trascinati in un gorgo dall'uomo che li accusa, trattano con affettuosità l'uomo che li accusa. È un labirinto dal quale ancora credo che poche persone siano riuscite ad uscire. Dobbiamo prendere tempo per capire. La storia di Michele Greco è abbastanza più semplice da decifrare. Lo stesso che a un certo punto disse, a proposito di un altro mafioso che lo accusava, disse: se Totuccio Contorno avesse visto Mosè e non il padrino, a questo punto non mi avrebbe accusato, io non sarei qui. Un eccezionale inganno di mescolanza tra finzione e realtà. La vera finzione era lui ed era quella società palermitana. È stato il capo della commissione di Cosa Nostra fino al 84-85, poi è diventato 84. Totorina. E solo che a casa sua ci andava il procuratore generale, ci andava Sua Eminenza il cardinale, ci andavano i questori, ci andavano i poliziotti, ci andavano i colonnelli dei carabinieri. Quindi altro che inganno di parole, scusate. L'inganno lì andava oltre le parole. C'era un inganno tale da non riuscire più a capire che cosa fosse mafioso e cosa fosse all'esterno della mafia. Questo è molto interessante quello che dici, perché era una palude, un mondo surreale dove altre erano le regole, altri erano i principi, altre era la morale. Era un mondo dove la mafia, il potere mafioso e la società erano intrecciate. Emblema della doppiezza, la finta telefonata sbagliata che era la parola d'ordine per la strage di Capaci, l'attentatuni. Anche questo è Cosa Nostra, la mafia delle cose tinte, ma anche di tragediature pupiate, di gente mascariata o del tutto combinata, dove la terza elementare sta insieme al latino, la cicoria coi codici dei Cesari, laddove tutto per molti così è, se vi pare.